L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata per la quale ci è venuta a trovare di nuovo Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l'Aria Onlus, benvenuta. Buongiorno a tutti. E questo ci dà già il tema generale, diciamo così, della puntata, ma non è venuta sola questa volta Anna, è accompagnata dalla professoressa Sandra Citterio dell'Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze Ambientali, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. E sempre dalla Università di Milano Bicocca il professore Ezio Bolzacchini, sempre del Dipartimento di Scienze Ambientali, benvenuto anche a lei. Buon pomeriggio a tutti. Parliamo di inquinanti in questa puntata, parleremo della situazione generale, quella che è adesso allo studio in Europa con la direttiva NEC, facciamo un po' il punto con Anna, poi parliamo di alcuni studi che sono stati compiuti proprio presso l'Università di Milano Bicocca per vedere l'interazione tra questi inquinanti e i pollini dell'aria e quindi le allergie che poi provocano e poi quello che si può fare con il professor Bolzacchini per ridurre questa carica di inquinanti che abbiamo, lo studio che loro hanno compiuto in particolare sulla città di Milano e la provincia di Milano, quindi un'area molto vasta e un'area purtroppo che conosciamo bene, molto inquinata. Anna, però cominciamo col dire qual è la situazione in Europa, cosa state seguendo adesso, cosa avete in programma tra poco, perché tra un mesetto c'è un appuntamento importante per voi. Certo, innanzitutto seguiamo le politiche europee dell'aria perché siamo assolutamente convinti come associazione che siano il traino per politiche poi italiane sempre più efficaci per la riduzione degli inquinanti. In questo momento, come ho già raccontato qui, c'è in discussione a Bruxelles l'ultima fase del negoziato della direttiva NEC sulla riduzione dei limiti delle emissioni nazionali. Entro giugno si concluderà questo negoziato e noi stiamo cercando di convincere il nostro governo a prendere una posizione molto più ambiziosa. Abbiamo fatto un calcolo, grazie anche all'EB che ci ha aiutato, per cui effettivamente... Che è il Bureau Europeo per l'Ambiente, sì, diciamo. Sì, esatto. È il European Environment Bureau, che è un'associazione ombrello di tutte le associazioni ambientaliste europee, che però naturalmente beneficia di tanti tecnici europei che volontariamente danno una mano a cercare di spingere le politiche europee in difesa dell'aria, che ha calcolato che effettivamente il ridotto livello di ambizione spinto dai governi in questa negoziazione causerebbe al 2030 un numero di morti molto superiore a quello che invece si potrebbe effettivamente ottenere. Quindi con politiche diverse, con politiche più ambiziose. Quindi noi abbiamo fatto un conteggio italiano che effettivamente dice che ci sarebbero 15.000 morti più o meno in meno al 2030 se il governo italiano oggi stringesse i denti e si decidesse ad adottare politiche molto più ambiziose, soprattutto nel sostenere l'inserimento del metano e un livello di riduzione dell'ammoniaca, e quindi qui il settore agricolo la fa da padrone, molto più incisiva. E quindi questo è il filone sul quale state lavorando adesso. Il 5 aprile l'appuntamento è dedicato più ai parlamentari europei. Il 5 aprile abbiamo una bella iniziativa, grazie all'onorevole Toia che ci ospita, diciamo, al Parlamento di Bruxelles. Invitiamo tutti i parlamentari europei italiani a innanzitutto conoscerci da un lato e dall'altro ascoltare il dottor Forastiere, la dottoressa Carla Ancona, che è stata ospite anche di questa trasmissione, a raccontare qual è lo stato della scienza epidemiologica sul tema dell'impatto sanitario in Italia dell'inquinamento atmosferico. Loro hanno fatto da poco lo studio VIAS, di cui abbiamo parlato, che ha quantificato l'impatto sanitario in Italia dell'inquinamento atmosferico. Hanno anche fatto un recentissimo studio che indica l'impatto sulla capacità cognitiva dei bambini che in gravidanza sono esposti all'NO2, individuando effettivamente una riduzione della capacità cognitiva di 1,4 di IQ nei bambini che in gravidanza e nei primi 7 anni sono esposti ogni 10 microgrammi di NO2. Quindi diciamo vogliamo invitare i parlamentari italiani ad essere ben decisi e ben motivati a spingere loro stessi, anche speriamo sul governo, che naturalmente è importantissimo, e quindi spereremmo anche di poter avere, abbiamo invitato il governo, speriamo di poter avere anche qualcuno della rappresentanza del governo il 5 di aprile a Bruxelles. Benissimo, allora su questo aspetto ci teniamo in contatto, perché ovviamente ci farà piacere chi c'è e chi non c'è, perché anche vale chi non c'è. Assolutamente, stiamo anzi cercando di immaginare come stimolare i nostri parlamentari a venire. A partecipare, belle, con le tartine, un classico. Esatto. Le tartine. Allora, l'abbiamo buttata un pochino in cacciara, però l'argomento è serissimo, appunto speriamo che la partecipazione ci sia e che tutti stiano molto attenti. Vedo professoressa Citterio che ha già sfoderato un calendario, lei invece, a mettere in relazione per i nostri ascoltatori gli inquinanti che ci sono nell'aria e i pollini, perché siamo ormai in primavera, ormai viene sempre prima la primavera, tra l'altro. Certo. Quindi anche perché per le persone che soffrono di allergia il calendario è importante. Questo è il calendario importante, e questo è l'inizio del periodo proprio in cui la maggior parte delle persone che sono allergiche iniziano a soffrire di sintomi, e quindi è importante capire quali sono i pollini che si trovano nell'aria nei differenti mesi, nelle differenti stagioni anche. E qual è la relazione con la relazione è che i pollini, possiamo dirlo tra virgolette, sono delle particelle che contengono gli allergeni, che sono quelle molecole che poi, quando raggiungono le vie respiratorie, portano alla reazione allergica, e quindi fanno sì che le persone appunto abbiano sintomi di vario tipo, quelli più leggeri comunque sono raffreddore da fieno, certo, classico famoso. Il classico raffreddore da fieno. Allora, gli inquinanti e i pollini messi insieme diventano diciamo esplosivi, ma quasi nel senso che ormai ci sono varie evidenze scientifiche, anche noi abbiamo fatto diversi studi su questo, l'inquinamento è una delle cause di aumento della severità delle allergie, e quindi è necessario che gli inquinanti siano mantenuti a un livello ridotto nell'atmosfera. Ridotto tendente a zero, vorrebbe dire. Ridotto sarebbe tendente a zero, naturalmente, però se almeno questo non si può fare, che siano sotto i limiti di legge. Ecco. Situazione che voi avete ben sotto controllo è quella di Milano, dove immagino negli anni abbiate visto aumentare il numero delle allergie. Quali tipi di allergie? Le allergie sono aumentate in modo consistente nell'ultimo decennio, e soprattutto l'allergia, diciamo, che è aumentata molto nell'hinterland di Milano, è quella all'ambrosia, perché l'ambrosia la famigerata ambrosia, perché l'ambrosia è una pianta che non è nostra, è una pianta appunto, è un organismo che viene all'autono, che viene da fuori dell'Europa, viene dall'America del Nord, e si è molto espansa nei nostri territori, e questo ha causato un aumento della sensibilizzazione delle persone, che poi appunto quando incontrano il polline hanno i sintomi dell'allergia. Sono solo allergie respiratorie o c'è un'interazione anche con altri tipi di allergie? Su questo ci sono studi ancora in corso. Per esempio all'Università di Vienna c'è una ragazza che ha lavorato tanto nel nostro laboratorio, che adesso sta appunto studiando quali sono le allergie, come le allergie alla mela possano in effetti poi essere incrementate dall'interazione con inquinanti che possono essere ingerite insieme alle mele stesse. Però è ancora un campo. Quello non è chiaro. Sulla parte respiratoria le evidenze ormai sono scientifiche, e possiamo proprio dire che c'è un aumento della severità della reazione allergica nel momento in cui una persona si trova in un ambiente inquinato. Quindi rispetto a qualche decennio fa abbiamo più inquinamento e anche delle piante magari che vengono da fuori. Esatto. Quindi una serie diciamo le allergie sono in continuo incremento, la prevalenza delle allergie è in continuo aumento e questo può essere dovuto, è dovuto a differenti fattori, uno di questi è l'inquinamento, ecco. Il resto possono essere anche proprio anche lo stile di vita, nel senso che noi purtroppo, meno male, i nostri bambini tendiamo a tenerli in un ambiente molto pulito, e questo durante i primi mesi, durante i primi anni di vita, e questo sembra non essere buono per le allergie, perché appunto i bambini in questo modo non sono stimolati dal contesto, da tutto ciò che c'è nell'ambiente, e quindi poi rivoltano il loro sistema immunitario verso, avendo delle reazioni verso qualcosa che di per sé stesso non è pericoloso, che sono appunto gli allergeni. Quindi sarebbe meglio che magari meglio che avessimo meno cura nel tenere lontani i bambini dalla terra, sterilizzassimo magari un pochino meno. Sì, certo, nei limiti, ecco, della sicurezza, sicurezza e dell'igiene, però permettessimo il contatto ai nostri figli con l'ambiente. Come mai, professore, indica con l'ambiente? Portiamoli un po' più fuori, in mezzo ai giardini, negli spazi verdi, in modo che così abbiano contatto con i pollini. E che noi, quindi il loro fisico magari se la prenda con qualcos'altro. Esatto, ma non con che se la prenda con ciò che è giusto che se la prenda, e non con delle molecole come gli allergeni, che di per sé stesso non sono pericolosi. È una reazione che non è una reazione normale, nel senso che è una reazione di difesa verso qualcosa che non è pericoloso. Che non è pericoloso. Allora adesso dobbiamo fare... solo alcune persone, quelle che sono geneticamente predisposte, hanno questa reazione, non tutti. Quindi... Però mi sembra che geneticamente predisposti sempre più persone, insomma. Adesso facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo questo discorso. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata nella quale stiamo parlando di inquinanti dell'aria. Ci siamo lasciati poco fa con la professoressa Citterio della Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze Ambientali. Ci siamo lasciati, dicevo, parlando della reazione sempre più frequente, allergica, che abbiamo. Allora, a questo punto, professor Bolzacchini, ricordo anche lui dell'Università Milano Bicocca, sempre del Dipartimento di Scienze Ambientali, diciamo un po' come possiamo intervenire su questi inquinanti che tanti problemi ci stanno provocando. Abbiamo detto prima con Anna Gerometta delle previsioni drammatiche che ci sono sul futuro, se continueremo di questo passo, con 15.000 morti, con insomma situazioni che abbiamo già definito altre volte con Anna Gerometta. Abbiamo detto delle allergie che sono il nostro quotidiano, diciamo dello studio che voi avete compiuto su come si può intervenire, quali sarebbero le politiche più efficaci per ridurre questa carica inquinante che abbiamo nell'aria. Allora, di queste cose che stiamo parlando abbiamo già pubblicato molti articoli scientifici, perché sono oramai dati di 2-3 anni fa, quindi diciamo conclamati da questo punto di vista. Beh, bisogna fare subito una grande distinzione, e questo è molto importante. Il particolato atmosferico, su cui noi è una delle più importanti cause delle morti, come si diceva prima, generalmente, eccetera, per cui PM10, al di sotto PM10, 2,5, PM1, 0,4, 0,1 e via di seguito, tutte le particelle... Che noi facciamo di tutte le erbe un fascio, esatto, ma in realtà... Esatto, cioè diciamo tutte le particelle che abbiamo presenti in atmosfera, dal PM10 in giù, perché il PM10 è il limite delle particelle su cui noi iniziamo a inalare, cioè dal 10 in giù noi iniziamo a inalarle, e quindi esplicano i loro effetti sulla salute dell'uomo. Sopra abbiamo un sistema di difesa che ci permette di evitare che entrino nel nostro organismo da questo punto di vista. Dicendo questo, quindi questo è un aspetto importante. Due punti sono importanti, è la divisione che noi dobbiamo fare su quello particolato su cui possiamo intervenire e su quello che non possiamo intervenire, o comunque su quello che possiamo intervenire in modo diverso da quello che diremo da questo punto di vista. Noi abbiamo il particolato di origine primaria, cioè quello di emesso direttamente, per esempio dagli autoveicoli, dal riscaldamento, eccetera, cioè particelle che sono emesse direttamente in atmosfera. Ma abbiamo anche un particolato di origine secondario, sono particelle che si formano da precursori gassosi in atmosfera, cioè per reattività fotochimica del sole, per esempio, della luce, permettono la formazione di un particolato in atmosfera, quindi particolato di origine secondario, perché non lo emettiamo direttamente. Tutti gli studi di cui vi parlerò, eccetera, eccetera, sono riferiti al primario. Poi dopo faremo delle differenze. È proprio è importante dire quanto è il primario e il secondario. Oh, per fare un esempio, in estate in modo particolare, il secondario è molto più importante del primario, cioè il secondario insomma 45% di quello del particolato che troviamo in atmosfera, e mentre il primario è intorno ai 30-32-33% per farlo. In inverno invece si capovolge un po' questa situazione, il secondario diminuisce un po', ma non è che diminuisca molto di più, siamo intorno al 25-30%. Quindi il secondario è importantissimo, quindi quello che noi diremo adesso è il particolato primario, però non dobbiamo dimenticare che abbiamo tutta che la parte che c'è una base che resta comunque e comunque anche lì si può intervenire, però lì è molto più complesso, perché la reattività fotochimica non è che riusciamo a controllare possiamo controllare i precursori di questa reattività, cioè i composti volatili che noi mettiamo, che poi derivano dal traffico autoveicolare in modo particolare nel periodo estivo, è questo quello che è più importante. Allora, facendo questo punto, distinzione importante, possiamo andare a vedere quali sono gli aspetti su cui si può intervenire. Precisiamo che l'area che stiamo considerando, noi questi studi l'abbiamo fatto 3 anni fa sulla provincia, perché sapevamo che oramai si va a parlare di area metropolitana e quindi è ovvio che si fanno in questa direzione. Sì, anche perché è difficile distinguere ormai, anzi sarebbe meglio non distinguere più, perché quando facciamo delle politiche per l'area dovremmo farle su un'area vasta, non certo su un paesino o una cittadina che stanno magari vicino a Milano che fa tutt'altro. Ecco. Esattamente. Poi si sa oramai, è già estremamente noto che diciamo che la conoscenza sulla qualità dell'aria nella provincia di Milano e Milano stesso oramai conosciutissima, studiatissima da tantissimi anni, abbiamo tantissimi dati scientifici e meta di progetti alle comunità europee, non solo italiani ma anche di nostri colleghi svizzeri, tedeschi, inglesi, diciamo siamo un'area proprio perché abbiamo questo problema molto studiato da questo punto di vista. Beh, andiamo a vedere un attimo quali sono i punti, cioè da dove possiamo partire. Questo è importante perché per esempio un 35% complessivo di PM10 lo possiamo ridurlo con tutto quello che sono i provvedimenti sul traffico, sul motori, cioè filtri, antiparticolato, blocchi della circolazione sabato e domenica, via di seguito, cioè tutta questa grande area riferita ai motori, diciamo così, o al traffico autoveicolare. Chiaramente di questo si sa che quello che producono maggiormente PM, particolato atmosferico, sono i motori diesel, sono loro fortemente implicati in questi aspetti, motori benzina o GPL, metano, molto meno ovviamente, i responsabili sono i diesel, quindi è lì che bisogna andare, eccetera. Poi abbiamo, quindi diminuire questo varrebbe un 35%, che non è poco da questo punto di vista. Poi nel periodo invernale abbiamo una limitazione del riscaldamento domestico, cosa vuol dire? Beh, non teniamo le case a 24-25 gradi, non stiamo con la maglietta, noi facciamo un maglione tranquillamente, tra i 18 magari, e 20. No, 18 no, neanche tanto. 19-20, insomma, queste dimensioni, 20%. Non è poco da questo punto di vista. Poi un altro dato invece molto, molto importante su cui continuiamo a discutere, però poi vengono fatte poche cose, poi l'anno geometro potrà dire tanto, è la mobilità sostenibile, bicicletta. Se noi facciamo in modo di incrementare la bicicletta, cioè aumentiamo i sistemi che permettono di usufruire ciclabili, per intenderci, che questo vale circa un 20%. Ecco. Quindi sono dati molto semplici, ma che fanno capire come si potrebbe evolvere con dei sistemi ampiamente noti, perché per motosi diesel basta mettere i FAP che siano antiparticolato, oppure evitiamo di usiamo alternative. Certo. Esempio come adesso pista diesel ovviamente evoca tutt'altra storia quest'anno comunque. È noto Beh, ma è sempre lo stesso punto di discorso, cioè usare i diesel perché hanno un sistema che permette per chilometro questo numero, però paghiamo lo scotto poi dell'inquinamento atmosferico pesantissimo da questo punto di vista. Quindi diciamo che per quanto riguarda il particolato atmosferico PM10 abbiamo un grosso incremento dovuto proprio da questi aspetti. Soprattutto la ciclabilità, un 20% è un dato molto è fondamentale, direi. Abbiamo ancora 2 minuti, quindi condensiamo le informazioni. Perché se andiamo a vedere quanto costa la mobilità sostenibile, non è che per fare questo dobbiamo pagare, anzi risparmiamo, è stato fatto un calcolo di circa 295 milioni di euro. anno. Tra l'altro ho letto che perché nelle... si consuma meno, non si va in macchina, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Ed è socialmente più accettata questa. Esattamente. E costa molto meno, ovviamente. Sì, qualche panino in più nostro. Ma adesso faccio anche bene, no? Un po' di muscoli e magari un po' di reazione, no, professoressa? Esatto, teniamo presente che comunque gli inquinanti possono avere anche proprio una reazione diretta sulle mucose, quindi al di là di tutte, per tutte le malattie croniche, anche proprio perché se sono presenti, quando sono presenti poi gli allergeni, aumentano la severità, come dicevamo prima, della reazione allergica. Quindi cioè, è importante, è veramente importante avere una riduzione degli inquinanti nell'atmosfera, e tutto ciò che diceva Ezio Bozzacchini è assolutamente da perseguire. Allora Anna, vorrei chiederti se sul sito di Cittadini per l'Aria Onlus trovano i nostri ascoltatori qualche documento che riporti agli studi dei professori che abbiamo qui, oppure se possono direttamente magari chiedere a loro per vedere. Metteremo. Mettetelo online. Mettiamo dai. Online. O un link magari che riporti. No, perché questa è una cosa molto importante, in effetti, solo che siccome il nostro sito è ancora in crescita. Però lo faremo a brevissimo. Comunque seguiteci sul sito, sulla pagina Facebook e su Twitter, e comunque possiamo mettere subito delle informazioni. Professor Bozzacchini, a lei. Bisogna ricordare una cosa che forse molte volte ci dimentichiamo. Cosa facciamo? La prima cosa che facciamo quando nasciamo qual è? Respiriamo. Appunto. Quindi l'aria è importante. Vorrei anche dire che è uscito questo dato ieri del fatto che la Norvegia spenderà 1 miliardo per strutture ciclabili. Ho provato a fare un conto questa mattina, sarebbero in Italia circa 170 euro a abitante. Pensiamoci, voglio dire, se lo fa la Norvegia c'è il ghiaccio, direi che forse vale la pena di investire, certo. Non dico 170 euro perché forse non siamo ricchi come la Norvegia, ce li possiamo, però insomma credo che anche questo sia un tema effettivamente di priorità di spesa a livello nazionale. Certo, perché poi è anche prevenzione di altra spesa, che è la spesa sanitaria. Assolutamente. Infatti. Ringrazio Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l'Aria Onlus, Ezio Bozzacchini e Sandra Citterio della Università Milano Bicocca. Appuntamento la prossima settimana alla stessa ora.